want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Beh, non voglio nascondere una certa emozione nel dare il via a questi appuntamenti che abbiamo intitolato Soundcheck, ovvero la prova del suono di Radio 24, un programma durante il quale testeremo musica di varia natura per il piacere delle nostre orecchie e ci auguriamo anche delle vostre. Buon pomeriggio a tutti da JJ Telesforo e buon pomeriggio a un mio amico, forse il mio migliore amico, un grande artista, un grande comunicatore radio-televisivo, ma soprattutto lo vorrei dire, un grande amico del popolo italiano, Renzo Arbore. Buon pomeriggio. Che meraviglia di presentazione, ragazzi. Sono contento di stare qui a Radio 24 con JJ Telesforo, che naturalmente, come dire, mio complice. Di molte malefatte. A Napoli si dice compare, però compare non è una parola che mi piace molto. Allora, senti, intanto vorrei chiarire che tu sei ospite di Radio 24, sì, e del nostro Soundcheck, ma noi siamo ospiti della tua Swing House, perché una delle prerogative del programma sarà proprio quello di portare la radio nei posti dove si fa musica, e questa, che è la casa dello swing, sì, per eccellenza, è una casa deputata alla musica. Sì, deputata alla musica. C'è proprio un manifesto Swing House, perché mi chiamavano Renzo Swing quando ero ragazzo, tu lo sai, e la mia fissazione è lo swing, perché lo swing è quel dondolio straordinario che ti procura il jazz, che ti procura il tempo in levare, che ti procura, che senza il quale non si può campare. Non è soltanto un fatto musicale, è anche un fatto d'anima, è il senso del ritmo, sì, col quale poi si fa tutto, si può anche governare un paese. Il battito cardiaco, una volta tu mi hai detto, sì, io mi sono annotato molte delle cose che tu mi hai raccontato in quasi 35 sì, anni di attività. Come insieme, no? Tu mi dicesti che a volte riconosci le persone dalla percentuale di swing che dimostrano nel vivere proprio. Sì, assolutamente, io se vado in farmacia, c'è il scelgo il farmacista che ha swing e non l'assistente che non lo ha. Se vado e riconosco le persone, il tassista che ha swing, quelli che hanno capito, è proprio una qualità. Ci sono quelli, Celentano dopo tanti anni ha fatto rock e lento, ma praticamente ha copiato. Adesso te lo ecco, posso dire. È una qualità che comunque è stata raccontata benissimo da Duke Ellington con un brano straordinario, che è il manifesto dello swing, no? Certo, che è una canzone geniale. Cioè, non significa niente se non c'ha lo swing. It don't mean a thing. Forse anche Duke Ellington non si riferiva soltanto alla musica, ma anche proprio alla vita in genere. Alla vita, alle persone, ma tutti, insomma, è chiaro che è una qualità, quella di essere opportuno, quello di essere bravi, quello di prendere a volo il momento. Quello, e lo swing è un po' la prontezza di riflessi. Il senso del ritmo, il non ammosciarsi, eccetera. E soprattutto, per esempio, alla radio è fondamentale, alla radio, perché la radio è fatta soprattutto di ritmo. Quando uno dice questo, uno è radiofonico oppure non è radiofonico, è perché l'attenzione alla radio deve essere sempre vigile e straordinaria, proprio perché tu c'hai il swing, c'è il senso del ritmo. I DJ qualche volta hanno soltanto il ritmo, allora, e noi parlano molto in fretta, qualche volta dicendo anche delle parole in libertà, come diceva Woody Allen. Dici, sì, parli come una radio libera, ha detto Woody Allen, perché voleva dire appunto parlare senza dire niente. Noi invece diciamo delle cose, caro Telesforo. Non solo diciamo delle cose, ma soprattutto vogliamo far ascoltare delle cose importanti. Allora, visto che parliamo di swing, e noi tempo fa ci eravamo ripromessi che, tornando a fare radio e televisione musicale, la prima artista che avremmo proposto sarebbe stata Ella Fitzgerald. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, all you gotta do is Ella Fitzgerald. Allora, io direi una cosa prima di andare subito in pubblicità. Tu sei avvocato, vero? Hai studiato? Sì, sono laureato. Allora, io perché non scrivi una lettera a Papa Francesco richiedendo magari di avviare un processo di beatificazione per Ella Fitzgerald, che mi sembra una cantante che non abbia mai fatto del male a nessuno, ha cantato tutto il cantabile e forse ha fatto solo del bene nella vita. Ma io credo che lei, se lo meriti, probabilmente lei adesso è canterina, starà cantando, adesso non vorrei essere irrispettoso, però When the Saints Go Marching In, When the Saints Go Marching In certamente la canta, però forse anche a una delle Madonne, soprattutto alla Madonna Nera, che è la Madonna Nostra, quella incoronata, incoronata, e può darsi che ella le abbia cantato la sua famosissima Lady Be Good, perché non è detto. Comunque, se vuoi sapere la verità, mi hanno fatto uno scherzo. Mi è arrivata una lettera a firma di un cardinale a nome di Papa Bergoglio, che mi, con tutte le forme della lettera del Vaticano, praticamente le cose, che mi chiedevano a nome del Papa, di Sua Santità, di aiutare la musica sudamericana. Naturalmente è uno scherzo, però fatto benissimo, a cui è seguito anche un altro scherzo per un'altra cosa di cui parlerò un'altra volta. I make my ding-a-ling, take away all the blues. Don't put me in your fancy car, your fingers on your own guitar. Come on and make me swing. Come make my ding-a-ling, take away all the blues. Beh, questo è un brano, però in una versione inedita, perché come l'hai chiamato? My Clarinetto o My Clarinet, Renzo? My Clarinetto, perché nella versione diciamo americana di questa canzone dedicata al clarinetto, che qualcuno ha pensato che fosse una canzone a doppio senso, no, My Clarinetto, il clarinetto è una canzone che ha un senso unico, quello tutti capiscono, che viene fuori dalla canzone. Nella versione americana, che ha più swing, tratto dall'ultimissimo disco che adesso esce in America, sta uscendo proprio negli Stati Uniti e poi uscirà anche in Italia. Poi racconteremo della performance che farai a New York a ottobre. In questo disco My Clarinet è la versione, sempre un po' a doppio senso, double sense diciamo noi a Hollywood, del clarinetto, una versione swing molto diversa da quella originale presentata a Sanremo. Allora, noi abbiamo, mi pare, diversi anni fa realizzato anche una versione in russo del clarinetto, giusto? Come no, siamo stati in era ancora... C'era la perestroica in atto. C'era la perestroica, insomma, non c'era l'apertura che c'è. E soprattutto il Festival di Sanremo fu spostato a Mosca, c'era ancora tutta quella cosa lì, e io feci il clarinetto in russo, che mi aveva tradotto un traduttore bravissimo russo. La cosa fu questa, se lo volete sapere voi di Radio 24, che la canzone aveva un doppio senso, ma la prima sera il pubblico russo non rideva, la seconda sera il pubblico russo si sforzava ma non riusciva a non ridere. Non ricordo perché. La terza sera il ministro della cultura sovietico mi disse: non si preoccupi, stasera rideranno, e si voltò verso il pubblico e fece una gran risata quando io cantai con voi, che facevate il quartetto, il clarinetto in russo. Poi si spiegò l'arcano. La canzone somigliava moltissimo a una canzone, a una poesia scritta da un dissidente russo, che era La chitarrina e la violina. Ma la penso. Violina e la chitarrina, che era una poesia messa all'indice dal regime di allora. Quindi, siccome il clarinetto somigliava con la chitarrina e il clarinetto a quella poesia, il pubblico aveva paura a ridere. Quando il ministro ha riso, tutti gran risata l'ultima volta. Esiste una documentazione in Rai. Beh, mi auguro che questo non accada adesso negli Stati Uniti. Non so la versione inglese, non ho sentito bene il testo, però mi auguro che non sia offensivo. No, perlomeno c'è qualche per Obama. C'è un ding-a-ling che per gli americani corrisponde a quello che noi, sì, lo diceva Chuck Berry. Perry, che poi è un grande, ecco, corrisponde, come dire, all'attributo maschile. Maschile, ecco. Messo un po' così, un po' sì, attaccato, certo, ciondolino, sì. Così buttato. Appunto. Va bene, mi sa però che invece Tony Bennett e Stevie Wonder insieme dimostrano degli attributi notevoli, soprattutto in questa versione di Everyday I Have the Blues, perché abbiamo parlato di swing, adesso parleremo di blues dopo averlo ascoltato, e quindi il quadro inizia a rendersi completo. Eccoli qui, Tony Bennett e Stevie Wonder. Sound check. Check one, two. Il suono della musica. Sound check. Il suono della musica. Allora, avendo proposto Stevie Wonder e Tony Bennett qui su Radio 24 al nostro sound check, pensi che possa essere una proposta adeguata alla radio di oggi? Beh, è assolutamente proprio radiofonica la voce di Tony Bennett e di Stevie Wonder. Credo che siano stati lanciati, Tony Bennett per anzianità certamente è stato lanciato dalla radio, perché non c'era ancora la televisione quando Tony Bennett era già Tony Bennett. Stevie Wonder è stato rilanciato dalla radio quando ha fatto i suoi capolavori, ma io ho un'opinione della radio, credo importante, che ho dopo anni e anni di studio e anche tanta esperienza fatta in radio eccetera. La radio rispetto alla televisione ha un grande vantaggio, non si vede, ed è perciò che è pericolosa, perché non ci si inciampi. Ecco, non Non ci si inciampi. Perché non la vediamo. Eh sì. Adesso ti piace io, questa definizione? Sì, non so se ridere a crepapelle o darmi delle martellate. No, si scioglie il rimmel. Sul ding-a-ling, come dicevi tu. Si scioglie il rimmel. Poi quando si tratta di Gegé Telesforo, che è appassionato di musica, lui usa il rimmel blues. Buona questa. Ti piace questa? Senti, sì. Rimmel blues forse è adatto anche a presentare un altro, e l'ho come scelto no. Apposta, perché questo è uno dei musicisti che ti hanno sempre fatto impazzire, in qualche modo anche per questa pubblicazione che ci sarà adesso negli Stati Uniti, in qualche modo credo abbia ispirato un po' il sound e la scansione ritmica fatta di shuffle e di altro, e ti sto parlando di Luis Prima. Beh, Luis Prima, io sono un suo grandissimo estimatore. Luis Prima, quando nessuno ancora calcolava che Luis Prima era, lo prendevano per un italo americano che cantava Mulagnane, cose eccetera, buonasera signorina, eccetera, avevo capito che lui prima era un grande artista, di origine salaparutese, cioè siciliano, i genitori Salaparuta, insieme con un altro inventore di jazz che si chiama Nicca La Rocca. Luis Prima ha portato la sua sicilianità straordinaria a New Orleans, che è stata la prima città che ha ospitato i coloni italiani, e in particolare siciliani, che venivano a coltivare il terreno della Louisiana che gli Stati Uniti regalavano a chi lo coltivasse. Quindi Luis Prima faceva prima jazz tradizionale, imitava Louis Armstrong benissimo, peraltro. Sì, ricordiamolo che era un eccellente trombettista. Nonché eccellente autore di canzoni. Lui ha scritto l'inno dello swing, Swing Swing Swing, Sing Sing Sing, che era la sigla di Benny Goodman. E poi ha scritto tantissime altre cose, alcune divertenti come appunto Buonasera Signorina, poi ha portato al successo già Cigolò e tante altre cose. Ecco, è spiritoso, gioia di vivere significa Luis Prima. Esatto, come in questa versione di Pennies from Heaven, un cavallo di battaglia anche di Frank Sinatra, che qui nella versione di Luis Prima assume un aspetto assolutamente festoso. Divertente e festoso, sempre accompagnato e affiancato dal sax tenore di Sam Butera, qui al soundcheck di Radio 24. And Allora, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora qualche minuto, perché vorrei proporre una delle ragazze che a noi piace per quanto riguarda lo swing. Io ho tentato durante i primi anni di presenza a Umbria Jazz anche di rimorchiarla, ma lei non ci filava assolutamente. Andavo lì con Danilo Re e Roberto Gatto per rimorchiare Diana Krall. Lo so, si è sposata Elvis Costello, con grande dolore anche mio. E ha fatto male, perché invece poteva trasferirsi in Italia e vivere. Ma insomma, ha fatto benissimo. Poteva fare Il Sole Mio a swing. Lo so, Diana Krall è una grande esponente dello swing, che oggi, anzi, l'ha rilanciato insieme con Michael Bublé, insieme con Peter Cincotti, insieme con James Callum, insieme con tanti altri, perché la musica di cui parliamo, di cui abbiamo parlato oggi con Gegé, è proprio il ritorno dello spirito dello swing e dei crooners che fanno swing. Ma continueremo a parlarne domani. Noi vi salutiamo con Diana Krall e il brano si intitola Exactly Like You. Grazie Renzo. Soundcheck. Il suono della musica.